nei vicoli della città vecchia, a metà mattina, la luce del sole batte sulle pietre lucide dei marciapiedi. Le finestre che si affacciano sul vicolo sono occhi scuri in mezzo alla luce. La strada profuma di ragù e il ragù si mescola all'odore dei panni stesi che sbattono nel vento. Cibo e pulito sono odori privati, odori di casa. Così dai primi passi capisco subito che quello che sto attraversando non è più uno spazio pubblico, ma è uno spazio privato, è la casa di una comunità. Annina è seduta su una vecchia sedia di paglia intrecciata, alla fronte rugosa, una faccia buona solcata dal tempo, che chiude due occhi profondi. Il bordo delle calze le spunta dall'orlo della gonna nera. Prima di parlare, la mano accenna un gesto antico, senza tempo. Mi fa segno di accomodarmi. Dopo un po', anch'io la mia sedia di paglia e siedo sul marciapiede accanto a lei. Annina mi indica la via e mi dice con orgoglio che vive in via Corrado IV di Svevia da tutta la vita. Questa è la strada dove ha conosciuto Luigi, che era suo vicino di casa quando erano bambini. Questa è la strada dei loro primi sguardi, delle promesse ai genitori del matrimonio. Questa è la strada della partenza per la guerra e dell'attesa del ritorno, quando stringeva il nodo alla gola. Qui sono nati 4 figli, qui hanno camminato i nipotini e sempre da qui si è incamminato nel silenzio il corteo funebre di Luigi, qualche anno fa. Via Corrado IV di Svevia è una via fatta di pietra, ovviamente, che si snoda in leggera pendenza a fendere un intricato sistema di vicoli. Le stradette strette, lunghe e tortuose che si mettono lungo la via principale, una volta con nome latino le chiamavano rughe lunghe, appunto. E non si può fare a meno di sorridere per la potenza di questo nome, che te le fa pensare come dei profondi solchi che il tempo ha segnato sulla faccia della città. Via Corrado IV di Svevia una volta era una via prestigiosa. Metteva in collegamento il Palazzo Ducale, sede del governo e dell'amministrazione della giustizia, con una delle porte cittadine, Porta Sant'Andrea, considerata l'accesso più nobile della città. Una volta, lungo la via, si susseguivano chiese, botteghe e case di famiglie dai nomi bizzarri e ben noti in città. I Chio, gli Accetta, i Colavecchia, i Tupputi, i Curto Passi e gli Spagnoletti. C'era anche un albergo per i viandanti lungo via Corrado IV di Svevia. La tradizione dell'accoglienza pare che in questa via abbia origini lontane. Annina guarda la pietra della sua abitazione, la tocca con le mani nodose e mi dice che la pietra di queste strade è custode di una doppia anima, un'anima contadina, povera, che viveva in un tempo agricolo, scandito dal lavoro di campagna, e un'anima signorile, benestante, il cui tempo era scandito invece dai riti sociali. Due vite e una sola pietra che parla. Le abitazioni contadine e i palazzi signorili si intrecciano, si sovrappongono, quasi si confondono in via Corrado IV di Svevia. Povertà e ricchezza paiono arrampicati l'uno sull'altro in questo angolo di Puglia. Così ci avviamo alla scoperta di Borgo Murgia. L'edificio è stato presumibilmente realizzato a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. E per accedervi ci sono due vie, una dal civico 9, che dà accesso a un cortile signorile, e una dal civico 11, una porticina affacciata su un vicolo stretto. Borgo Murgia, dunque, è sintesi di queste due anime, quella contadina e quella signorile. Due porte per due mondi diversi. E un unico passato, tutto da recuperare.